tedesche si ritrovano per mettere a fuoco le proprie esperienze e i propri interessi su delle tematiche che possono interessare appunto le due aree culturali e le ricerche delle università che vengono coinvolte. Il tema di oggi acquista un particolare rilievo, e non solo per le celebrazioni del centenario del 1525 ora concluse, ma direi per il rilievo storiografico che è venuto assumendo il problema di Geismar e del movimento contadino del Tirolo in questi ultimi anni, rilievo che non è certamente di carattere puramente celebrativo, ma investe in realtà appunto tutto un ripensamento e acquista un'attualità indubbiamente notevole, che come dimostrato anche dall'interesse per questo stesso seminario in tutto l'ambiente nostro. I temi dei prossimi seminari di febbraio e di marzo sono già definiti, voi li trovate in calendario anche esposti all'ingresso dell'istituto, e sono molto interessanti anche questo, sia per la relazione di Thor Petersen del 14 febbraio, perché il parallelo tra nazismo e fascismo è una delle discussioni diciamo più attuali e più brucianti, insomma, ecco, che ci possono essere, e certamente anche questo è un tema che può coinvolgere larghi interessi, sia anche il tema che il professor Berengo tratterà in marzo e che direi è un tema veramente importantissimo per il Trentino, perché il problema del servizio allo Stato asburgico, insomma, e dei trentini, dei grandi funzionari, dei grandi servitori dello Stato asburgico, in relazione al problema della nazionalità, è uno dei temi anche questi fondamentali di queste zone di confine in cui Stato e Nazione hanno avuto intrecci così diversi e così complessi negli ultimi secoli. Detto questo, dato notizia del telegramma con cui il Presidente della Regione comunica la sua impossibilità di essere presente ed augura buon lavoro al convegno, do subito la parola al professor Stella, per il quale io non faccio nessuna presentazione perché non ce n'è bisogno, la sua competenza sull'argomento è ben conosciuta, lo ascoltiamo soltanto. Ecco, il metodo è chiaro, come metodo, scusa un istante, mi sono dimenticato, cioè vuole essere appunto informale. Ci sono due fasi, una stamattina di una relazione e relativa discussione, poi si sospende, si riapre alle 3 e si riparte con lo stesso metodo fino a concludere intorno alle 5 e mezzo, 6, a seconda di quella che sarà la discussione. Quindi vorrei dire, sia l'impostazione delle relazioni, sia le discussioni devono essere improntate proprio a questo tipo di partecipazione, meno accademico possibile ma più sostanziale, aderente ai temi che vengono trattati. Anzitutto sono riconoscente all'Istituto Sergio Italo Germanico, in special modo all'amico professor Prodi, di avermi invitato qui a discutere un argomento così vivo, impegnativo, difficile, ma anche in qualche modo sempre di attualità. Sono riconoscente anche a quelli che mi hanno onorato, da bene la professor Corsini, amico professor Corsini, il professor Weimar dell'Università di Innsbruck, il professor Wittmann, il professor Ritz e tanti altri illustri colleghi, che forse, come ho già detto ad alcuni amici, specialmente nella prima parte della conversazione che riguarda anche aspetti medievali, non saranno soddisfatti da quello del taglio storico, ma ad ogni modo poi la discussione metterà in luce meglio alcuni aspetti. Avviso accanto di equivoci che il mio studio sulla rivoluzione contadina del 1525, l'utopia di Michael Weismann, fu concepito e pubblicato, come risulta anche dalla premessa, per gli studenti dei professori dell'Università di Padova a Bolzano, che avevano manifestato il desiderio di conoscere la storia locale delle popolazioni alto atesine e tiraliste. Tuttavia, aggiungo subito che non è un saggio fine a se stesso, poiché è mia intenzione, una volta completate le ricerche lunghe e complesse d'archivio che sto facendo, anche alcune medicali mi è capitato su un incartamento dell'archivio notarile di Padova sulla compravendita di un'ampia tenuta di fogli organei dove il Geismar nel 1528 si diede all'allevamento del bestiame, con tutte le vicende poi successive, di più poi documenti di importanza storica sul nesso con i corsisti fiorentini, specialmente i prossimi, e quindi si capisce poi che si sia stato un delitto di Stato. Ma quindi a questa parentesi stavo dicendo che è mia intenzione di cimentarmi successivamente in una monografia appunto su Michael Weismann. Quindi la conversazione di quest'oggi deve essere, non deve essere affatto intesa come conclusiva e tanto poi e tanto meno riassuntiva di una ricerca storica già ultimata, bensì sottopone all'attenzione benevola e anche alla critica degli studiosi più convenuti quelli che ritengo i motivi fondamentali e specifici del movimento contadino e della rivolta del 1525 nel territorio trentino tirolese, alla luce anche di fonti documentarie, almeno in parte, rimaste quasi sconosciute o disconosciute. Confido, come ho detto, che poi nella discussione si puntualizzi ed eventualmente si rettifichino alcune mie assertioni, tanto più per l'argomento così vasto che, per economia di tempo, devo omettere alcuni aspetti più già noti agli studiosi e che ho illustrati appunto in quel volumetto. Consideriamo subito, poiché lo ritengo essenziale per un'adeguata comprensione e valutazione della genesi e dei successivi sviluppi del movimento contadino cinquecentesco nel territorio trentino tirolese, il contesto socio-economico. Complessivamente si può dire che tale contesto risulta molto diverso, non solo da quello dei vicini domini veneti e lombardi, dove il movimento contadino non si diffuse e non poteva diffondersi, per tante considerazioni, va bene, perché le condizioni sociali economiche dei contadini erano del tutto diverse, e anche per quella osservazione generale che faceva il Cantimori, che la cultura tedesca, anche cittadina, è sempre legata alla campagna, laddove nell'ambiente italiano, va bene, tale cultura, specialmente nell'età rinascimentale, è disgiunta dalla campagna e quindi anche da tutte le questioni che interessavano il ceto contadino. Stavo dicendo, ma è anche diverso questo contesto da quello dei cantoni svizzeri e da quello dei paesi transalpini soggetti alla stessa dominazione asiatica. E non è nemmeno possibile indicare una qualche uniformità nell'ambito del medesimo territorio trentino-tirolese. Anzi, la disponibilità del contesto socio-economico è così molteplice ed eterogenea che il tessuto sociale alla vigilia della rivoluzione contadina appare quasi del tutto dislegato, snaturato e sconvolto rispetto ai suoi caratteri originali. Se si volesse stabilire una discriminante, non generale, ma anch'essa in senso relativo, indicheremmo il rapporto città-campagna. Ma nelle stesse città alto-attesine sussistono situazioni diverse e il comportamento del ceto borghese nei confronti del movimento contadino è diverso da città a città, in quanto gli interessi sono diversi. Laddove, ad esempio, a Bressanone, l'esiguo ceto borghese, insoddisfatto per la mancata concessione del Consiglio cittadino nel 1522, fa piuttosto causa comune con i contadini e condivide la richiesta della soppressione del potere temporale del vescovo, invece a Bolzano come a Trento, la borghesia commerciale cittadina diffida fin dall'inizio del movimento contadino e non intende affatto compromettersi, anzi rifiuta decisamente e ripetutamente di far causa comune. Tralasciando dunque per il momento, ma questo sarà discusso in un secondo tempo, tralasciando di coinvolgere le borghesie cittadine, cerchiamo piuttosto di esaminare i motivi dell'esasperato malcontento delle comunità contadine, sia complessivamente sia nelle diverse componenti, dai liberi contadini, tra le altre, ai semiliberi, vanno qui richiamate alcune nozioni ben note agli studiosi di storia medievale della società germanica, perché altrimenti non si possono ben intendere le anomalie intervenute nel contesto socio-economico appunto delle giurisdizioni o giudicature di campagna e di montagna alto-attesine dalla fine del XV agli inizi del XVI secolo sotto Massimiliano d'Assurgo. Discuto con alcuni studiosi appunto di storia economica per la sintesi che sto premettendo al contesto socio-economico appunto nell'età medievale. Nell'età di trapasso, dall'economia cosiddetta naturale a quella monetaria e di mercato, il sistema tipico della billicatio, hof nell'ambito germanico, come quello della Kurtis in Italia, cioè unità socio-economica accentrata e quasi autosufficiente, diretta da un villicus, detto anche da Staldo, che non era un officialis, ossia un funzionario nella terminologia moderna, bensì aveva soltanto veste amministrativa alle dipendenze del signore feudale, che attendeva alla condizione diretta della parte dominica, appunto dell'abilità o quietis, mediante i servi della gleba e anche mediante le corvette, le interpretazioni gratuite dei massari che conducevano la parte appunto cosiddetta massalizia della dell'Italia, in due parti, dominica o salica e massalizia, ed erano destinati in maniera dei contadini, i manchi cosiddetti ingegneri, i postiti, circa 15 ettari, mentre i servi detti casati e di fatto semiliberi avevano soltanto i manti appunto detti servili, più piccoli, al massimo fino a 15 ettari. Tale sistema, dunque, della villicazia subì una crisi notevolissima nella parte appunto dall'economia cosiddetta naturale all'economia cosiddetta monetaria. Dai canoni in natura si passa a quelli misti e infine a poco, quasi soltanto a quelli in denaro. Anche se rimangono eventualmente perché faremo parte delle situazioni successive. Dai canoni in natura si passa a quelli misti e infine a poco, quasi soltanto a quelli in denaro. Le cose sono molto ridotte, perché i massari o i liberi contadini le riscattano con una somma in denaro e i signori anzi facilitano questo riscatto, poiché la parte dominica o fabica delle filicate è stata essa stessa suddivisa in piccoli manti quartali, una quarta parte di un manto, o è venduta o ceduta in seguito a debiti al nuovo ceto emergente della borghesia cittadina. Avviene una trasformazione con effetti anche giuridici che culminano nella sostituzione del villicus con l'officialis, funzionario che esercita la bassa giustizia in un ambito più ampio della villicatio e amministra la hofmark o curia, evolutasi in seguito in Gericht, in giurisdizione, in giurisdizione, con un giudice o un pfleger, appunto amministratore. Lo sviluppo o il passaggio dalla villicatio alla hofmark e al nuovo ordinamento in giurisdizione Gericht non fu assolutamente uniforme, anzi si riscontrano molteplici anomalie ed esempi di cosiddette esenzioni, esenzioni giuridiche. Laddove i possedimenti fondiari ecclesiastici sono estesi e compatti, come in Val Badia, San Martino, Luzon, Vandoglie di sotto, eccetera, lì si mantiene il diritto di immunità e conseguentemente in queste giurisdizioni, appunto, esenti, non solo l'amministrazione spetta ad officiales delegati dai principi vescovi di Grottanone e di Trento e non più ai potenti e indocili ministeriali di un tempo che spesso avevano atteso ad annettersi i beni vescovili, ma lì anche le liti civili rimangono di competenza del tribunale ecclesiastico, sebbene la Landesordnung del 1404 avesse stabilito per tutti i sudditi del conte del Tirolo, aveva stabilito che per tutti i sudditi del conte del Tirolo fosse competente il tribunale del luogo locale. Si lamentava specialmente che in tali giurisdizioni esenti sussistesse il diritto feudale, Hofrecht, cioè il potere che i signori feudali avevano sui servi della greba e che manteneva l'aspetto più odioso e contestato nel cosiddetto Freistift o Freistiftrecht, diritto feudale che esigeva indiscutibilmente ogni anno il rinnovo dell'affitto, o piuttosto più esattamente contratto di usufrutto, ai contadini dipendenti a condizioni tardive. Anacronistica sopravvivenza questa dei cosiddetti servi cadati di un tempo, secondo il beneplacito del Signore che poteva di anno in anno aumentare il canone d'affitto con l'aggiunta di servizi, corvée e onoranze. le onoranze erano tipiche in tempo dei, diciamo così, degli schiavi, dei servi della gleba, e consistevano in pollame, uova, va bene, vai fatto, vai forza, penso che non sia più il caso che mi risponda sul Christus, che permaneva specialmente nell'alta Valle d'Osteria e a San Candido, dove continuò a lungo, e si hanno esempi per tutto il Cinquecento e anche nel Seicento. Per citare un solo esempio che mi è stato notificato da il mio allievo qui presente, nel 1608 fu istituito a San Candido un nuovo Christus su campi di un fondo ecclesiastico, e si aggiunse esplicitamente come giustificazione per un maggior trovamento della Chiesa, trovamento o profitto della Chiesa. Il documento dice testualmente: per il maggior giovamento profitto. Va sottolineato che già nel 1502 era stato abolito il Christus nell'ambito della giurisdizione diretta del Conte del Tirolo, e quindi apparve ancora più odiosa la disparità giuridica cui erano soggetti dei fondiari ecclesiastici, con tali dipendenze semifeudali. Analogamente avveniva per i contadini dipendenti dai conventi di Novacella e di Sonnenburg. Lo Stolz definì patrimonial diritto questa sopravvivenza di usanze e di consuetudini feudali. Possiamo soggiungere che non a caso, dunque, questi conventi, Novacella, Sonnenburg, come anche le case dei canonici del Duomo di Bressanone, furono i primi ad essere assaliti dai contadini ribelli. Altrettanto va detto per l'ordine teutonico, che nel 1470 aveva ottenuto la signoria sulla giudicatura di Reichenstein presso Bolzano, come già abitiamo, e fece pesare i suoi privilegi a danno dei contadini. Cosicché si spiega l'odio accanito con cui gli stessi contadini devastano nel maggio del 1525 la sede dell'ordine teutonico, distruggendo financo le stufe e ogni superlettura. Invece, da tali privilegi ecclesiastici e sopravvivenze semifeudali erano escluse le città, eccezione fatta di Bressanone, la cui borghesia anche per questo fu solidale coi contadini in rivolta, a differenza di quanto avvenne a Bolzano e a Trento. All'esasperazione dei contadini influì in tutto il territorio trentino pioralese, dalla Val Chiusana alla Val di Nonna, Val d'Aosta e Valle dell'Isarco, un fatto contingente ma di notevolissima importanza, e che si andò accentuando sempre più, non tanto per l'introduzione del diritto romano nella pubblica amministrazione al posto di quello consuetudinario germanico, che tutti sanno, va bene, che il nuovo diritto non contemplava i beni comuni come in quello consuetudinario, così che poi i contadini dicono che il diritto consuetudinario tedesco, germanico, era simile a quello evangelico, allo spirito evangelico, e lo contrappongono al nuovo, che è invece di tipo, diciamo così, capitalistico, almeno lo sentono, secondo la nostra terminologia, quanto per le necessità finanziarie di Massimiliano D'Astorgio. Ho detto che si accentua questo fenomeno, a cui ho detto aiuto subito, non tanto per l'introduzione del diritto romano nella pubblica amministrazione, quanto per le necessità finanziarie di Massimiliano D'Astorgio. Intendo alludere alla questione del segno fund delle giudicature di campagna a forestieri, chiamiamoli, talvolta camuffando l'invadenza e gli interessi delle potenti case commerciali finanziarie, dei Kucher e dei Baumgartner, che monopolizzavano la coltivazione delle miniere d'argento. In tal modo l'amministrazione delle giudicature diritte passa dagli officiales, pubblici funzionari, dipendenti diretti del principe e da lui stipendiati come giudici e Kreger, passa nelle mani di speculatori che amministrano dispositamente e senza alcun controllo, appunto le giudicature, tanto da diventare di fatto ed essere significativamente chiamati signori, signori della giudicatura. Ho detto appunto signore della giudicatura, giudicatura, scusate, va bene, Gerichter, non viene più chiamato Richter o Kläger, ma viene chiamato Gerichter, signore. Anche questo mutamento è significativo. Se si rammenta che secondo l'antico diritto germanico spettava all'assemblea plenaria della comunità ogni potere di decisione nelle cosiddette extending, cioè tutte le questioni concernenti la comunità, non esclusa l'amministrazione della giustizia, anche se in seguito la competenza fu limitata alla regolamentazione economico-amministrativa, le cosiddette setting, come l'uso del popolo, del pascolo e del bosco comune e la distribuzione degli incarichi comunali, risulta ben evidente quanti motivi di malcontento avesse ogni comunità contadina e come si rivendicasse nostalgicamente il ripristino degli antichi diritti, chiedendo fin dall'inizio della rivolta non solo l'abolizione di tasse e delle decime, della grande decima sui cereali, della piccola decima sui minuti, va bene, e poi tutto quello che si aggiungeva alla tassa cosiddetta del sangue per gli animali macellati e via dicendo. Abolizione di tasse che una volta non c'erano, questo è ripetuto continuamente nei documenti, das von alter Nigeresen, che una volta non c'erano, ma anche di tutte le cosiddette impegnazioni, cioè cessioni, si chiede l'abolizione anche di tutte le cosiddette impegnazioni, cioè cessioni di impegno standard, come si legge negli atti della cosiddetta dieta contadina di Meran, nella versione vernacolare, la questione impegno dei castelli, bacchette, cioè di Richter, e di tutti i fitti. Queste impegnazioni, già nel 1502, costituivano un fenomeno degenerativo preoccupante e non isolato a pochi casi, in quanto, come rilevò il Hofner di là del Tiroide, non più di 15 iscritte nel 1502 risultavano ancora disimpegnate, cioè non seguite impegno. E 17 anni dopo, nel 1519, non se ne contavano più di 5, anzitutto Bolzano e Merano, e poi Kufstein, Dubai e Sonnenburg, appunto Pellino. Anche per questo motivo si spiega l'atteggiamento moderato dei cittadini di Bolzano e Merano nelle vicende, e anche di Trento, nelle vicende della ribellione contadina. La ribellione che contestò violentemente appunto le usurpazioni addebitate ai signori del giudicatore. È da soggiungere che nel Principato Vescovile di Trento si riscontrava lo stesso tipo di impegnazione, ed infatti anche qui l'odio contro i signori delle giudicature si manifestò con violenza. Basti citare per esempio la tragica fine del signore di Noli, Pietro Brugio, arso vivo nel suo castello dai contadini in rivolta il 3 luglio 1525. La stessa fine toccò a Giorgio Tura di Castelvani, avvenimenti questi che il compianto Adolfo Cetto descrisse minutamente e che vanno inquadrati nel fenomeno generale della degenerazione del pubblico funzionario officialis in signore, più o meno disposito della giudicatura. Diverso, come si è detto, il caso di Bressanone, dove il principe vescovo e il capitolo del Duomo, i conventi di Novacella e di Sonnenburg mantenevano le giudicature sotto diretto controllo, e quindi si spiega come lì appunto l'incontenibile malcontento si scatenò tutto nei confronti degli ecclesiastici e della Chiesa vescovile. L'involuzione degli amministratori ufficiali in signori della giudicatura comportò conseguenze molto pesanti per i contadini. Se precedentemente il principe si limitava ad avvocare a sé il possesso dei boschi e delle acque pubbliche solo nelle vicinanze di miniere e di saline, almeno regali, secondo il Boxine dalla metà del secolo XV, invece, dagli inizi del Cinquecento, i signori delle giudicature impegnate intaccano i diritti che la comunità contadina riteneva acquisiti e inalienabili, anzi quasi di sua esclusiva pertinenza, come i pascoli e i boschi comuni o demaniali. E di più, non è disposta a lasciare ai signori tutti i sempre più notevoli profitti derivanti dallo sviluppo della coltivazione delle miniere. Josef Tomasek, che sottolineò come una delle cause della rivolta contadina sia stata la detenzione dell'amministrazione della giustizia da parte dei latifondisti, non ha tenuto conto affatto della situazione socio-politica degenerata appunto in seguito a questo nuovo tipo di impegnazione, che fin dall'inizio della rivolta e poi ripetutamente negli articoli di Merano e di Imbrich i contadini denunciano. Le testimonianze sono esplicite e inequivocabili. Citiamo qualche esempio. Nel pomeriggio del 13 marzo, sabato 1525, il sindaco e il consiglio della città di Bolzano interpellano i contadini che hanno appena saccheggiato Castelvanga sede dell'ordine teutonico e la casa degli ebrei, e chiedono perché mai abbiano fatto tali violenze senza avvisare il Consiglio stesso. Rispondono, come è verbalizzato negli atti della giunta rivoluzionaria conservati nell'archivio di Bolzano e che mi ha fatto conoscere lo stesso mio allievo di credente prima, rispondono che non solo ritenevano di poter a buon diritto saccheggiare le case degli usurai e degli ecclesiastici esodi, ma che non intendevano desistere finché i castelli e tutto quello che del demanio pubblico era stato dato impegno, notate come si sottolinea sempre questo, che era stato dato impegno ai signori delle giudicature, non fosse tornato in potere del principe. Significava poi per i contadini tornasse alle condizioni precedenti del principe, dal quale, da parte del quale volevano sapere se fosse o no consenziente e difensore dei diritti usurpati a danno delle comunità e giudicature. E viene detto esplicitamente che rivendicano una raies land, un paese libero dagli usurai, dai signori delle giudicature, confermano, e anche dalle compagnie commerciali e finanziarie forestiere come i Fugger, che avevano avuto impegno e monopolizzavano le miniere del paese. Sono gli stessi motivi che poi vengono ripetuti e formalizzati negli articoli di Merano e che in un testo più conseguenziale si rilevano nella Landesordnung del 1526 dello stesso Michele Geismayr. Quindi vi è senza dubbio un filo logico che collega le spontanee e univoche richieste delle diverse comunità o giudicature di campagna e le successive richieste fino agli ultimi sviluppi e appunto alla Landesordnung del Geismayr. Quindi la tesi di molti studiosi ripetuta dal Matek, che si è arrivato tuttavia a Buchner, di una contrapposizione già iniziale del radicalismo del movimento contadino di Bressanone con quello moderato delle comunità contadine meridionali è una tesi discutibile e che risulta almeno inesatta. A questo rilievo di carattere generale si aggiunge, e non è in contraddizione, il malcontento particolare dei sudditi dei principati vescovili che in seguito al Libel, alla Convenzione del 1511, lamentano di essere costretti a pagare le tasse straordinarie imposte in misura eguale ai sudditi diretti del conte del Girone, senza essere essi, che sono tutti diretti invece dei principi vescovi, senza essere esentati dalla cosiddetta tassa che già pagavano, detta Hofzeit o di avvocatura, cui erano soggetti come contributo alle spese sostenute dal principe laico, advocatus ecclesiae, per la difesa appunto dei principati contadini. In tal modo si accentuavano la disparità e le ingiustizie, poiché la dipendenza dal vescovado comportava maggiori oneri e non assicurava nemmeno quei diritti che avevano o che rivendicavano i sudditi del principe dalla posizione giuridica dei contadini alquanto migliore sancita nella Landesordnung del 1404 all'abolizione del Reichsgericht del 1502, sebbene quest'ultima, si noti, fosse riuscita di fatto, questa abolizione del Reichsgericht del 1502, fosse riuscita di fatto più vantaggiosa al conte del Girolo e rispondesse alle tendenze assolutistiche di Massimiliano, poiché scalzava notevolmente i privilegi signorili consuetudinari dei latifondisti. Da parte dei contadini da bene soggetti veniva vista questa abolizione come un bene, da parte invece dei, chiamiamoli così, latifondisti, questa abolizione veniva vista invece come una diminuzione di autorità e come un avvio a quell'opera di accentramento finanziario, politico e militare che aveva avviato a questo Massimiliano. Quanto al livello del 1511, va rilevato anche l'equivoco in cui cadono gli studiosi che si limitano a sottolineare come in quell'occasione siano stati tassati nobiltà e clero, se non che per questi, cioè nobili e alto clero, per questi la tassa riguardava soltanto la rendita fondiaria, con l'esclusione delle case che essi stessi abitavano, o la seconda casa di campagna, e insieme erano esclusi i beni fondiari che facevano coltivare direttamente. E anche di questo si lamentano appunto i contadini nella rivolta del 1525. Sono state messe delle tasse, sì, ma sulla rendita per i nobili e per l'alto clero. Noi invece paghiamo sui beni stessi, sulla proprietà, va bene. Nobili ed ecclesiastici avevano poi la possibilità di rifarsi a spese dei contadini dipendenti. Così nel 1518 il vescovo di Bressanone impone una tassa supplessiva di 4 gulden, di 4 fiorini, per ogni fuoco foresta. E i più svantaggiati evidentemente sono i meno abbienti, poiché viene colpita indiscriminatamente l'unità familiare, il focus, va bene? L'unità familiare che possieda beni valutabili da 100 o 150, ecco, dopo 1511 si è stabilito 150 gulden fiorini in su. E si sa che vi erano vastissimi poderi valutati 2000 e più gulden, quindi la stessa tassa toccava sia a chi aveva, va bene, dei beni valutati complessivamente 100-150 gulden e chi aveva invece un podere di valutato 2000 e più gulden. Voi capite che è una ingiustizia. Siccome poi la tassazione colpiva solo i beni immobiliari, non toccava che in minima parte la borghesia cittadina, che si dedicava invece al commercio o all'artigianato. Quindi si spiega, ripeto, che il malcontento nelle città fosse meno accentuato e conseguentemente si spiega la scarsa partecipazione della borghesia del centro borghese alla rivolta. Soltanto a Bressanone, come si è detto, per le diverse condizioni del centro borghese, insoddisfatto anche in seguito alla mancata istituzione del Consiglio della città, richiesto e non concesso nel 1523, influenti cittadini partecipano alla sommossa e tanti sollecitano i contadini a non lasciarsi sfuggire l'occasione. Voi contadini siete dei vivi, ripetono, se lasciate giustiziare il facile, va bene, che doveva essere condotto nella piazza del mercato per essere giustiziato la mattina del 9 maggio 1525. E poi Peter Lanz, delegato della borghesia del Bressanone con Agostino Wolf, guida le masse contadine all'assalto dell'abbazia di Novacella, un mio allievo che ho già nominato, va bene, e mi studio con lui e talvolta accolgo qualche notizia da documenti che mi ha fornito, mi ha fatto notare che in quest'ultimo caso la testimonianza è poco attendibile, poiché il Kirchmaier e l'abate di Novacella, denunciando, dopo che fu domata la rivolta, l'attiva partecipazione della borghesia cittadina al saccheggio, potevano essere mossi dall'intento di coinvolgere la responsabilità appunto della città per ottenere da questa la riclusione dei danni subiti. Non so se mi sono spiegato. Quando ci sono i processi, va bene, il giudice Kirchmaier, che poi era contorto per queste cose, e l'abate insistono che sono stati i cittadini che hanno istigato i contadini a dare l'assalto, e questo può essere inteso, diciamo così, come un motivo pretestuoso, perché i danni subiti, ammontanti a 25.000 fiorini, fossero pagati dalla borghesia cittadina. Tuttavia, secondo me, i fatti antecedenti e seguenti, quel saccheggio, non sono equivocabili, e piuttosto il ceto borghese di Bressanone ebbe tutto l'interesse di addossare, dopo il fallimento della rivolta, ogni responsabilità sui contadini e sulla collusione con essi di pochi, soltanto pochi, concittadini borghesi che si erano apertamente compromessi. È poco attendibile l'argomento addotto post eventum dai cittadini di Bressanone, cioè di aver subito stipulato un patto comune con i contadini, solo perché quest'ultimi, chiamando i cittadini Pfaffenknecht, servi dei greci, li avevano minacciati di rappresaglie nel caso che non avessero aderito. A questo punto, cioè a Novacella, il 13 maggio 1525, compare sulla scena e poi sempre più di campeggia Michael Geismayr. Ma qui forse conviene chiudere questa prima parte della conversazione citando in sintesi le testimonianze raccolte dal giudice Brucker, quello stesso che aveva preceduto il processo del Fassler, sulle aspirazioni iniziali dei contadini ribelli. Si legge così nel Dalvaro: era stata una piccola cosa il saccheggio del convento di Novacella. Essi volevano occupare tutti i castelli e i conventi e consegnare al principe tutto il paese libero. Ecco che torna anche qui, come a Napoletano, va bene, volevano tutto il paese libero, libero dalle impegnazioni, cioè. Essi non volevano più pagare tasse o canoni d'affitto. Se poi il principe non avesse voluto accettare ciò, avrebbe dovuto abbandonare il paese. È quello che dicono i contini dei contadini di Bressanone quando sono radunati la prima volta a Milan, nei campi là di Milan, e avevano avuto un colloquio con i rappresentanti della borghesia. Erano queste le aspirazioni comuni dei contadini del territorio trentino tirolese e coincidono singolarmente con la risposta che, come abbiamo già detto, quello stesso giorno di sabato, 13 maggio 1525, i contadini dei dintorni di Bolzano, dopo il saccheggio di Castelvang, avevano dato al consiglio della città al Sassolino. Dunque, comuni, spontanei, ingenue aspirazioni di gente che si ribellava alle stesse forme di ingiustizia e di sopravvivenza sociale, agli stessi soprusi. A questi movimenti contadini spontanei, Michele Geismayr si impose non soltanto con l'autorevolezza di un capo eletto all'unanimità dai suoi compaesani, quanto e anche piuttosto perché fece, diciamo così, di un volto disperso un popolo consapevole dei suoi diritti e attese subito a un rinnovamento morale e religioso, come attesta la sua immediata preoccupazione di far allontanare gli ecclesiastici indegni e di far predicare l'autentico messaggio evangelico, come vedete anche nei documenti, in quelle fotocopie che vi sono state consegnate. Ecco, nella penultima, ecco, lì si dice appunto che il Geismayr si preoccupò affinché predicatori evangelici fossero subito chiamati a presa noi, presumibilmente avvalendosi di predicatori di indirizzo riformato zwingliano, tenendo conto degli stretti legami che pochi mesi dopo Geismayr appunto strinse e mantenne poi sempre con Zwingli. Se mi consentite qualche minuto ancora d'attenzione, solleviamoci un po' dall'analisi pesante e gelida del contesto socio-economico. Mi sono spesso chiesto perché Michele Geismayr, anziché avviarsi nell'autunno del 1525, dovendo portare un rifugio al di fuori del territorio soggetto al conte del Tirolo, anziché avviarsi nel Pinzgau, nel Salisburghese, che sapeva tenuto falsamente dagli ribelli d'Oltralpe, sui quali pur compilava moltissimo per i suoi propositi di rivincita, vada invece da Zwingli a Zurigo. Sì, come il Geismayr non confidava più, adesso siamo con il salto che sto facendo nell'ultimo autunno del 1525, dopo che la, con l'inganno era stata proclamata la ribellione contadina, mentre Geismayr era stato con prefetto chiamato a imprese e costretto a non andarsene, va bene, alla situazione croata. Chi, ripeto, scusate, come il Geismayr non confidava più nella borghesia cittadina, poiché aveva, per così dire, piantato in atto i contadini sconfitti con l'inganno e rimasti indifesi ed esposti alle violenze e rappresaglie dei mercenari. Come poteva il Geismayr fare piuttosto affidamento su Zwingli, che giustificava e consolidava con la sua ecclesiologia il governo borghese di Zurigo, in polemica con Gregel e altri giovani intellettuali, da prima allievi dello stesso Zwingli, e erano stati anche di Erasmo, alcuni come Gregel, giovani intellettuali che avevano dato vita al radicalismo anabattistico, e sapete che l'anabattismo, la prima volta che fu battezzato uno in età moderna, fu appunto a Zurigo, a soldi con le finanze di Zurigo. Al di là di tante considerazioni che possono essere fatte, sui vasti orizzonti militari e diplomatici del Weismann e sulla congenialità del radicalismo religioso zwingliano, appunto, che aveva anche delle basi dottrinali ben salde, a differenza della mancanza di una ideologia nei contadini, come ho insistito anche nel mio saggio, non vanno dimenticate, al di là di tutto questo, alcune analogie biografiche e l'entusiasmo platonico e cristiano ad un tempo che suscitava in ambedue il fascino della natura, che parla sempre di Dio all'uomo di fede. Zwingli, come Weismann, nacque in un piccolo villaggio appeso al fianco di una montagna a 1100 metri d'altezza, dove dice la vita è difficile ma sana e gli inverni sono lunghi. Tutti e due sono un bel esemplare delle genti alpine, ben coloriti al volto, tanto che Gaio ha dato un momento veniva quasi detto di essere di avere l'aspetto da vinazzati, diciamo così, ben piantati sulle spalle, il mento energicamente pronunciato, lo sguardo penetrante, gli occhi vivaci. Ambedue sono fieri di appartenere alla razza contadina. Secondo Zwingli, come anche Geismayr, e questo va sottolineato per intendere quello che diremo successivamente sulla Landesordnung, colui che lavora i campi è colui che più al mondo assomiglia al buon Dio che ci ha creati. Conservate, ripete testualmente Zwingli ai suoi allievi, conservate la nobiltà che vi deriva da Adamo, ritenuto il primo contadino, perché è presto quelli che lavorano i campi che fioriscono di più la pace e la virtù. Contemplando la natura stupenda delle Alpi, i pensieri di Zwingli e di Geismayr si dirigono del tutto spontaneamente verso chi l'ha creata. Le montagne, questa massa tragica, cito testualmente quello che Zwingli dice in una sua predica famosa, le montagne, questa massa tragica, massa imponente e misteriosa, non proclamano l'ineffabile potenza e la maestà di Dio? Notate poi, e questo penso che Giovicini, che talmente, diciamo così, a chi non conosca bene l'argomento, i verdi pascoli dei salmi biblici diventano per Zwingli i belli alpeggi in Fener Alpo Weidet Hermi. Gli uccelli e le fonti, anche questi del Salmo 126, diventano i uccelli gelidi, sui quali soffia il fermo, il vento caldo che viene dal cielo. Il cristiano, anche questo è un dettaglio, davanti alla tentazione diabolica, deve imitare la chiocciola dei lumi di boschi alpini che rientra nel suo guscio. Notate tutti questi esempi che sono tipici di chi è dell'uomo di montagna. Sono anche questi spunti. Sono anche questi spunti che non vanno disconosciuti da chi voglia intendere la storia vivente, di suoi vivanti, degli uomini di ogni epoca storica. Per intendere la Landesordnung da Geismayr si deve tener conto della geografia storica, ecco un aspetto che deve essere sottolineato, la connessione tra la storia e l'ambiente, poiché l'uomo è parte integrante della natura. Si deve tener conto dell'esperienza diretta fatta dal Geismayr della vita e della lotta per l'esistenza degli alpigiani, contadini e minatori. E inoltre non va sottovalutato lo spirito nuovo che pervade ed entusiasma una popolazione ancora vergine, incline ad attese messianiche di libertà e di giustizia sociale alla luce del messaggio evangelico. Popolazione ancora vergine, decisa a risalire dall'egoismo all'amore mediante il senso cristiano della comunità fraterna. E poi procediamo empiricamente, nel senso che se appunto la situazione si esaurisce, il professor Stella continuo anticipa cose che erano destinate alla seconda fase pomeridiana, ma direi che c'è stata tanta carne al fuoco che non dovrebbe essere difficile a persone più competenti di me avviare la discussione sul problema della fase di trapasso economico, dei nuovi rapporti economici, dei nuovi rapporti città-campagna, sul problema dell'inserzione dei movimenti contadini nella fase di formazione dello Stato moderno, e quindi questo problema del centralismo, insomma, ecco, di Massimiliano, che si ripercuote proprio fino nelle più profonde campagne, insomma, come tipo di problemi, e infine la parte finale, diciamo, di connessione ideologica, se vogliamo semplificare i termini, c'è il problema di questa ricerca di un'ideologia unificante del movimento dei contadini, dell'evangelismo giudiano, insomma, ecco, quindi non mai sono appunto penso i motivi di interventi sia per chiedere di espandere il discorso su certi punti oppure per presentare problemi. Siccome ho invaso un campo scusato fin dall'inizio e non potevo non... Ho visto molte cose interessanti proprio per la prospettiva di un Trentino, però conoscere conosce meno in quanto sono candidato piuttosto a questa lunga economia a i confronti mi si è progettato di vedere quante cose si verificano da noi altrettanto quante cose non si verificano da noi, no? Per esempio questa faccenda del Franchi, io ho l'impressione che da noi non faceva problema, non presente, ma pongo una domanda. Ecco, i contratti di abitante così che io ho visto sono usuali e insomma vanno secondo un tipo di abitario molto tradizionale, addirittura ereditario in pratica, no? Ci sono rinnovamenti ogni volta di vescovo, no? Il vescovo nuovo naturalmente chiama tutti a rinnovare i beni e così, ma sono procedono molto secondo un sistema di diritto ereditario, però mi pongo spesso più a poco e in quanto fino da noi esiste anche un simile istituzione e in quanto crei problema, non ho presente. La faccenda dei tempi di ignoratisti di questi tempi affidati con un peso, a me è stato un po' nuovo che venga vista in questa prospettiva e capisco molto che questo aggravava il problema. Lo strano è che, per esempio, da noi succede che il castello di Termine è in feudo al Conte del Priolo, tant'è vero che a un certo punto, e invece Bolzano, non ricordo più perché la forza di Prestito, se qualcuno può dire, è un feudato a Vesco, a un certo punto si fanno aspetti di Termine, il prezzo ha permesso di Termine con Bolzano, con un cambio che non si spese qualche grasso, qualche magre, ma Termine era più vicino e apparteneva più in certa profondità del territorio, ma perché ha impressione che qui in realtà non era un signorante privato, ma era addirittura un signor che prendeva il tè. Era un fatto molto, molto praticato, nel dare il tè. Adesso poi il tè da noi, questi signori signoratisti, cioè questi che avevano un tempo impegno anziché averlo per vecchio costume del dare o per una forma di ufficialità, no? Diretta supremazia del principe, se questo abbia perché tale ha aggravato molto la situazione, anche questo non posso dire perché penso che c'erano dei servi diretti che però col costume di allora erano trattati non meno molto bene che in termini ignorati, quando il sistema dell'appalto con la fotografia, compreso quello delle giurisdizioni di tribunale e così via, che venivano dati in appalto in pratica di violenza, era praticato in modo piuttosto generale. Ma non un pedico mi pongo, non sento così caputo la sentenziale, lo dico per reazione a esprimere i stimoli della conferenza portata. L'ultimo discorso sulla religiosità di Quindri e di contadini mi fa ben pensare che questi attenti, anche molto legati alla terra, quindi, e molto protesi verso una invarianza evangelica, forse fanno parte di un patrimonio comune che Quindri stesso riflettendo. E lo penso agli attenti delle leghe, dei contadini, dei padri, tutti gli attenti in Germania, ancora nel 400, no? L'Arnold Conrad e gli altri, altri gruppi di questo genere che si potrebbero percepire tutti in attento così, tutti in attento di Quindri, in fondo, fino alla fine del 400. Il grande assioma proclamato da Pastore al Adam Blue, Evan Pan, Herbert Damar, Daniel Mann, no? Quando Adamo zappava e Eva mirava, chi era allora dell'uomo. Ecco, ed è molto vicino a questi attenti che questi siano diventati quasi un'eredità stabile in questi movimenti, con popolazioni più o meno felici da parte dei vari interpreti. Ma lo vedresti come un fenomeno più generale, questa situazione che doveva ripassare. Il dato di nuovo era qui effettivamente il fatto del protestantesimo, chiamato così di tale. No? Questo comporta rispetto ai movimenti del 400, certamente qualcosa di nuovo nel campo religioso, anche con gli allarmi che si provoca, con gli atteggiamenti ideologica, diremo una crisi, un problema più profondo che si porta con sé. E dato canto, ovviamente, nel presente 1525, certamente siamo ancora molto lontani dal Concilio di Trento, dalle formulazioni di questo riguardo, insomma, credo che anche molti possono fare più credito in certo religioso, in questo momento, anche se si uscivano dai era un po' meno il superamento degli altri corretti movimenti, questo società religiosa che stava in permesso, non era ancora eredia, in modo che tutto ciò che le figlie dentro il terzo libro fondato con un altro frontale, ma tutto le mani dei candidati rispettati. Ma certo un movimento anche il corretto. La storiografia tradizionale nostra pecca molta retroproiezione di storici obiettivi di una storia della guerra russica, ovviamente tornano religiosamente e condannano i germi religiosi col metro e del vino che è venuto vent'anni dopo questo pari tutto questa luce. E soprattutto diceva questo, importa, perché io sono ricordo il libro di testo. Loro dicono, noi avevamo dei stati di regola, avevamo dei statuti che sono continuamente violati, se noi abbiamo presentati al nostro signore quando abbiamo detto la nostra giudicatura, e questo signore non lo ha. Poi il signore aveva anche la possibilità di eleggere il giudice, e su questo giudice poi praticamente facevano tanto non seguiva la legge, ma seguivano questa del proprio signore. E pertanto, per esempio, l'uso delle multe. No, non so, mi sembra che io di un anno stavo fatto qualcosa di delle multe di un super giudice, perché appena dati più di 5.000 che un giudice da dire o di fare le cose, tutto la vita profondità che è morto, no? Io ovviamente le operazioni, diciamo, come per esempio la storia della radio di Nord, dove stavano le operazioni più vicine alla territoria di Oro, vedevano invece una netta differenza tra quella che era la loro posizione, dove il giudice e il signore, diciamo, aveva praticamente la possibilità di amministrare i propri beni, beni comuni, anche beni che aveva avuto una vita in gestione, da un secondo proprio completo potere, e questo diceva, come le indicature diceva Schlegel, che era appunto diciamo, il mandato del principe, il quale invece aveva toccando il caso, non aveva interessi locali, e quindi il caso era molto più facilmente rispettoso di quelli che erano le leggi, i diritti, tutti, i diritti, e anche soprattutto l'ultimo per il questo lo so, abbiamo fatto, per esempio, molto indicativo, per esempio la discussione per i bracci dei maniali che si è appunto fatta a tempo, no? Perché i castellani volevano che i bracci dei maniali fossero riferiti a loro, perché cioè, non soldati a loro, mentre invece i regolari, quando i bracci di tempo, volevano che i bracci andassero al paese e fosse riuscito per mantenere l'inquilino. Da questo contratto, no? Questo contratto che poi si ridicherà anche nel Tirolo, ma più tanto, se dopo le segnazioni di Quotidiano, io trovo un preciso motivo per cui in alcune operazioni precise, a un certo momento si forma un certo partito più dal pubblico, cioè un desiderio di essere anche loro amministrati dal pubblico in questa forma. No? Per non sapere, forse lo fosse praticamente sentito dal fatto personale di un attimo di mondo prima di essere amministrato. Il mondo di qualche parte appunto, ma soprattutto per questo fatto, perché appunto lui amministrava attraverso diciamo della gente diciamo che non ha interessi locali, e l'altro invece l'amministrazione l'aveva demandata a gente che invece l'interesse locale di avere molto forte, e quindi per tanto usava la legge di politica del mondo, l'uso verso dei benefici, questo beneficio che avevano per appunto un certo amministratore, un certo della legislatura, poteva avere preso contratto a benefici e usava la sua figura di esempio per far sì che questi benefici che i benefici che quelli che devono lavorare per questi benefici, invece di dover per esempio dare una certa quantità di roba, la dassero secondo un'altra misura, secondo una misura che allora si dava con cura, invece di dare lo taglio di medico, lo dava lo taglio di 30 e così via. Cioè ovviamente diceva questa linea che dice diciamo pure una forma di ma tanto di libertà che non esisteva invece nel territorio comunale, perché si trova in alcuni territori. E questo mi sembra l'aspetto significativo della differenza e dell'importanza anche della determinazione e della giunta della giustizia. Quando loro tireranno la parola, quindi non si vuole fino a ritornare vecchi tempi, anche nel territorio in alcuni legislature dove sarà particolarmente sentita questa direzione. La fine della legislatura particolarmente diciamo presentata particolarmente particolarmente potente per dire cosa chiedono anche loro di ottenere gli esercizi cioè io non dico che sia la condizione data a questo contadino per il tipo di affitto a cui venivano proposti gli attuali legge su quale persone sia ora si capisce di arrivare diciamo più legge. Parte proprio dal fatto del tipo di amministrazione locale che significa la differenza tra il locale e gli altri. Era solo molto vasto. Sì, certo, è molto vasto, infatti nella formazione rustica non è altro tipo di comportamento. Noi sappiamo che esempio la Valtugana ha un comportamento molto diverso da quello che era la Valtugana, da quello che come la formazione rustica. E la Valtugana è molto il principato di Trento, con la Sestina. Che vengono a devastare le campagne, no? Ma siamo a Borgo, non a Trento, non c'è peggio che Arezzo, insomma, mi riesce difficile apportare queste cose sotto l'unico comune denominatore, perché evidentemente il governo di Enzo doveva avere un interesse diretto, o non si ricordava di quello che era il governo. No, volevo proprio dire che non è solamente perché non è diverso da libertà, conoscente di questo settore della storia, ma forse è interessantissimo questo aver raccontato l'eroismo di motivazioni della rivolta proprio sul fatto economico, sui dati di natura economica, di natura sociale, e concordo esattamente che da questo punto di vista è difficile trovare un termine comune, perché abbiamo situazioni diverse che sollecitano poi comportamenti diversi nelle singole zone, sia proprio con una grossa differenza tra il Trentino e la parte trentina, vero? E anche tra le diverse cose del Trentino. Ma forse il denominatore comune va proprio ricercato invece, di poterlo dire, su un sottofondo di programmi ideali di natura religiosa e di natura politica spirituale, che a mio avviso sono proprio quelli che rendono questa notizia e questo momento della storia nostra qualcosa di eccezionalmente pieno di importanza, anche di vicinanza. E insomma, qui innanzitutto abbiamo un fatto eccezionale, una presenza attiva del mondo contadino, che non è però soltanto legata al momento rivoluzionario, è anche precedente attraverso proprio il fatto istituzionale, vero? Perché i contadini hanno una loro rappresentanza, un loro diretto intervento negli organi costituzionali del paese, vero? E in secondo luogo c'è tutto il richiamo a delle aspirazioni di un rinnovamento religioso e di un rinnovamento politico che costituisce l'unità di questa diversità di espressioni e di reazioni degli affetti economici. Io dico sinceramente che se guardiamo per esempio agli articoli della Chiesa di Milano, e moltissimi sono legati al fatto economico come tale, ma alcuni e proprio principali riguardano l'aspirazione ad una riforma dell'amministrazione, ad una riforma della Costituzione e anche contemporaneamente ad una riforma della religiosità, della espressione dei rapporti, e questo richiamo evangelico, no? questo desiderio di vedere tradotto in concretezza proprio nell'ordinamento anche amministrativo e nei rapporti economici, in questo senso di comunità evangelica. Per me questo è il massimo, mi ero affidato all'ultimo intervento del professor Rose, questo è il massimo perché io lo presento anch'io, così come occasione per una discussione, cioè non di nuova scelta di Dio. Mi permette, io esco proprio dal mito di una varietà delle persone che si sono riguardate, che si sono riguardate, che si sono riguardate, che si sono riguardate, che si sono riguardate, che si sono riguardate, che si sono riguardate. Ecco, noi però ci limitiamo a questa parte e direi che questa rivolta di contadini nel Trentino non andrebbe a citare la rivolta di contadini nel più ampio contesto della Germania meridionale, e cioè in sostanza, come sollevato per la Germania meridionale, si resterebbe nell'ambito di una rivoluzione e restaurazione, in cui l'esperienza si trova tanto da Gramsci in passato. Nel senso che in realtà la rivolta è vuota, come il contadino, è finalizzata al ritorno a una situazione di diritti feudali. Mentre mi pare che qui c'è qualcosa di nuovo, che sul piano economico, insomma, in un certo senso, si vuole tornare a una restaurazione, e qui il fatto in sé che invece questa condizione di una coscienza attraverso il momento religioso, cioè si arriva a un avanzamento ideologico, a una consapevolezza, a una responsabilità politica che è effettivamente l'aspetto di novità. E non questa la novità, quindi mi pare che insomma, questo vada evidenziato, almeno per quello che appare a me. Va bene, mi limito solo a dire, gli amici di lingua tedesca parlino pure in tedesco se vogliono, c'è nel senso che per semplificare queste riunioni procediamo per non incorrere in termini, eccetera, che ognuno parla la propria lingua, poi in fondo ci si arriva a capire, insomma, ma c'è tutta un'esperienza con te. Poi il professor Coppola. No, prima lei, il professor Coppola. Volevo dire, prima di tutto, per quanto riguarda i diritti che avevano tutti i contadini del territorio tedesco, bisogna fare una distinzione ben precisa, cioè questi diritti non erano comuni a tutti, ma per esempio non avevano questi diritti, non li avevano quelli del principato del Comune di Trento e non avevano quelli del principato del Comune di Bessanone che non avevano diritto a partecipare alla Chiesa. Quindi già da questo, cioè, si esisteva quindi una richiesta da parte di tutti, si poteva partecipare ad esempio a questa Chiesa, a questo tempo. Poi, vedere di dove che stanno la parte. Io adesso, da più da un anno che sto esaminando questi documenti sull'argomento, io ho trovato, sarà un fatto, ho trovato soltanto, non fatto, ho trovato le vere vittorie, per esempio, unicamente in questa cosa. Cioè, l'unico forte, uno dei forti della rivolta, e dopo la rivolta, subito nel periodo immediatamente successivo alla rivolta, si parla di predicatori protestanti, dove si parla di Diego, di Dio e Bressanone. E Carlo Strano, cioè, esiste una coincidenza sostanziale, appunto, fra queste idee, no? Questo mi sembra a me, potrebbe essere per esistere un rapporto logico, tra la posizione del Geisler, la presenza di predicatori protestanti di Bressanone, gli articoli di Merano dove si trovano appunto queste idee e la grande posizione del Geisler. Cioè esiste, secondo me, esiste un rapporto logico che si può vedere in questa maniera, perché non ci sono altre nelle parole di qualunque altro momento, non si trova altro appello a questo tipo di nuove idee di loro. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda, insomma, questo ovviamente della mia esperienza, per quanto riguarda la questione della problematica, cioè che si diceva una nuova tipo di vedere la realtà stessa, cioè dal momento che non è soltanto voler ritornare al passato, ma anche ritornarsi con una dignità nuova, no? Cioè con delle persone che sono veramente coscienti di quelli che sono i loro diritti. Ecco, secondo me questo deriva molto, potrebbe almeno derivare da un'altra situazione, cioè dal fatto che effettivamente questa gente, questa popolazione, aveva avuto modo localmente, nelle comunità locali, di esprimersi liberamente, di avere una partecipazione diretta appunto a quelli che erano le forme di gestione, no? Della loro comunità. E insomma non a caso, insomma, dalla metà del 400, della metà del fino al 1450 mi sembra, cominciano a nascere nel Tirolo centro di Affare. Chi è un affare? Non è la gente che faceva, diciamo, la lotta per i propri diritti dai tempi, ma la gente che si poneva se stesso sullo stesso piano del signore della giudicatura o del giudice o dell'autorità. Cioè lui diceva, era un discorso costituzionalista, lui diceva, noi abbiamo dei diritti, sono stati violati, pertanto noi non riconosciamo più in te il nostro signore e noi ci poniamo in guerra contro di te. Cioè è veramente un concetto, no, che si affonda alle sue radici proprio nel modo in cui la gente sentiva i propri diritti come membro di un certo tipo di comunità. Lei ha parlato di predicazione religiosa, e per noi non siamo consapevoli che questa predicazione era prevalentemente che di tipo interano o quindi, oppure se c'è qualche rapporto con gli eventi italiani, cioè la matrice di questa predicazione religiosa. Ecco, io l'unica cosa che posso dire a questo proposito è una, cioè, io posso dire una sola cosa, posso dire che nel corso della rivolta stessa, il Geismar manda, cioè il consiglio, diciamo, di Bressanone, decide di inviare dei delegati ad Svizzera, cioè di invia qualcuno a Parigi e decide di inviare in Svizzera. Io penso che questo indica una certa scelta, no? Siccome contemporaneamente a Bressanone sono presenti in questa linea, dicono di essersi stati, insomma, alcuni predicatori, diciamo, non dite che il diritto, diciamo, di questo giudizio, comunque i predicatori protestanti, diciamo, come dire, e proprio la persona e avere intenzioni di rivolgersi verso la sinistra, io credo che si possa vedere una individuazione chiara di una simpatia verso questo tipo di. Vari potenti istituzionali che si iniziano a creare sicuramente c'era un scritto più comune tra i due diciamo di campagna. Direi che l'ultimo rimane il problema del cambiamento che è scritto nel campagna. Io voglio dire questo, io ho notato, perché ho fatto una, in questo una piccola analisi, tra le situazioni dell'ambiente professionale, ho notato che noi vediamo come la rivolta prevale, cioè in via tese, molto più attesa, laddove i canoni sono veramente motivativi. Cioè, praticamente dove dice la motivazione della vite, del grano, no? Cioè dove effettivamente veniva richiesto ai contadini un canone più acceso, è più attesa, se lì prende a ferire. E perché questo? È chiaro che quella valutazione monetaria, diciamo che era alla sorrente in altre due rande, diciamo con un certo tipo di economia, cioè la valutazione, cioè la crescita del corso della vita, diciamo, quindi, la valutazione che era estremamente in quel finale del tempo che era generale. Loro dicono molto spesso che noi vediamo una parametra, cosa succedeva? Succedeva che quelli che avevano i canoni di denaro vedevano che assorbita praticamente no, in parte, andavano a vendere i loro prodotti a un prezzo superiore e quindi potevano in certo momento tenere conto di questo tipo di evoluzione economica, ora di questo tipo di critica. Mentre invece quelli che avevano i canoni di natura, i tali canoni di natura, non avevano nessun potere, anzi, erano costretti pagando il denaro, per esempio le tasse a crisi, pagando il denaro, erano costretti erano presi per il collo, erano costretti ad affidarsi agli ebrei, per esempio, no? E per questo si pagano anche con gli ebrei, erano costretti ad affidarsi a dare loro a terra Io vorrei chiedere e credo che nel 21 alla base della questa rivolta di si piantava anche quella rabbia che i contadini nutrivano verso la nobiltà, sia la nobiltà maggiore, ma anche la nobiltà minore che nel principale di Trento era dai vescovi creata, data a delle famiglie, a delle persone che così diventavano esenti dal pagamento delle tasse, dal pagamento delle decime, dall'assumere le cariche nelle varie comunità, e questo faceva sì che il mondo contadino dovesse sopperire con le proprie tasche anche a quello che questi nobili rurali o nobili esenti non davano alla comunità. Questa è una semplice domanda, anche perché mi pare da dai testi nostri scrittori, trentini come Giuliani e Sardane e gli altri, che hanno studiato un po' la rivolta di Rizzi, mi sembra anche che il nome di Michele Vermeier non si appare mai, non appare mai, e dubito che nella rivolta dei trentini ci sia alla base, almeno in forma forte, e anche la questione religiosa. Credo che qui da noi la predicazione, diciamo, che veniva da anche non sia arrivata in forma così massiccia come è arrivata nelle valli cristianesi e nelle valli alquadrine. Del resto, fra gli eredi, diciamo, del momento non abbiamo altro che l'appunto, che però proprio in quel momento se ne va verso la Svizzera e verso l'Inghilterra, e non credo che abbiamo... No, dopo, nel 58. Ma appunto credo che non abbia avuto delle larghe bisecoli e delle larghe larghi problemi. Del 1692. sono molto recenti, fino al 1692 hanno pagato, il verbale del, non c'è il nome, il verbale del anche era capitano del e fino a quel tempo hanno sempre pagato in natura. Poi ti dico che la valle di quattro incariati sono stati di un dia venuti a dare una mano volontari al vescovo di Trento e il comandante dei volontari si chiamava Giovanni Spagnoli. Ma comunque questo è un'altra, è un particolare, è una repressione. E sono venuti volontari e hanno contribuito a calmare la democrazia, a difendere il vescovo perché si cercava autorità. Ed erano gli ortesani di Verona, sono venuti a difendere il vescovo di Trento, erano tutti gli altri di Trento, sono venuti a difendere il vescovo di Trento. Io pensavano abbastanza bene, anche perché Massimiliano Vasco aveva garantito tutti i privilegi del commercio veneziano, principale dei quali era la libera vendita. Era tutto veramente con un peso che era necessario, poi noi abbiamo visto un atto, ma che era indispensabile per la conta delle pendite. Un ultimo intervento e poi direi che questa mattina tiriamo le file della discussione con la replica. Io voglio dire che per quanto riguarda la risposta al prestito, a me sembra molto importante un aspetto molto particolare che alcune il fatto di rivolgersi contro la città di Trento. E cioè io penso che l'aspetto più particolare della rivolta nel prestito sia proprio questo, cioè che i caduti cittadini che prevedevano dire che i contadini vendessero la città di Trento perché cambieranti, no? I loro prodotti, ponevano loro che sopprimessero una certa percentuale dei loro prodotti, ha avuto un'importanza veramente fondamentale per quanto riguarda la rivolta del prestito. Un'altra cosa per quanto riguarda quello che diceva, che effettivamente ci risponde alla stessa cosa anche nel Tirolo, cioè anche nel Tirolo, in seguito appunto al periodo della città mineraria, tutti quelli che potevano essere fitti, pagati in natura, cioè praticamente i fitti che si pagavano sul grano e sulla vite anche, no? venivano richiesti in natura, perché anche questo in terra che l'ho detto, mi sembra che l'ho fatto anche spesso, io che ho fatto un lavoro anche sul corso, quindi non parlo male con una storia di decisione che non è legale, però si ha appunto una. Anche nel Tirolo c'è la stessa tendenza, cioè nel 500, all'inizio del 500 si ha questo per quale trasformare, riportare i fitti dove potevano essere richiesti natura, cioè per quanto riguarda appunto il grano, il vino, a fitti in natura. Lui, nell'alta Venosa, operava in Galizia da 1720, no? E credo poi che ha reso protestante tutta la Valle Engadina, tanto che il vescovo di Coira ha chiesto al vescovo del Tirolo, predicatore in lingua tedesca, perché gli abitanti di Ture hanno cambiato da ladino la lingua in tedesco, perché non c'erano predicatori ladini e sono andati a cercare i predicatori tedeschi. Io vedo uno vive che è diverso in questo periodo, e adesso lì sono carino. Che il famoso fallito di Latino. Sono tanti gli aspetti che sono stati indicati che è difficile una puntualizzazione. Beh, sono riconoscente a tutti quelli che sono intervenuti, agli altri, va bene, per queste richieste di delucidazione. Anzitutto, Monsignor Roger, va bene. Condivido con lei che la situazione trentina è diversa, infatti vi ho detto fin dall'inizio. Tuttavia non è omogenea e ci sono molte analogie, sia nei confini d'Italia, sia dove c'è il dominio più o meno diretto per segno con questi fergi pignoratici. Quanto alla religiosità dei contadini, sono d'accordo con quello che è stato un po' accennato. I contadini non vedono con simpatia Lutero e forse nemmeno Zwingli in primo tempo. Si volgono a Zwingli soltanto in secondo momento per sollecitazione di Reichmann, ma è più spontaneo l'indirizzo di tipo anabattistico. Il fratello stesso di Geismar, anche viene giustiziato, si intende va bene che c'era anche un motivo, diciamo così, di natura giuridica, cioè l'anabattista cadeva sotto la legge imperiale, e quindi anabattisti e ariani potevano essere senz'altro condannati alla pena capitale. Calvino stesso applica questa norma quando fa giustiziare il Michele Cassetto, in base appunto alla norma del diritto criminale. Quindi la propaganda luterana è molto limitata, secondo me, anche nell'ambito di Bressanone, almeno dai documenti non risulta. E ci sono dichiarazioni esplicite degli studenti ai Platesini, i tedeschi a Padova, e il Canuto di Elenca, di volta in volta, che i contadini non hanno simpatia per il Cerebro. La propaganda non è stata accolta, nemmeno accolta, sì, quello lì della libertà, la libertà del cristiano in senso vago, ma non risulta dai documenti che ci sia stata una propaganda eterodossa molto accentuata, anzi, sì, forse qualche cosa acchiusa da parte dell'abate di Schittini, di San Candido, ma molto e molto limitato. Il mio allievo che ha nominato validissimo Summa, che sta concludendo anche la crisi, ha messo in risalto alcuni argomenti che sono stati discussione continua tra noi due, perché i documenti stessi non sono univoci, hanno bisogno di un vaglio e di una comparazione. Il professor Corsini ha puntualizzato che il sottofondo, se non mi sbaglio, nominato questo qui, che c'è una situazione di disagio che è comune, ma non so, studiosi della competenza di un Wolfner stesso non è che abbiano sempre tenuto la stessa tesi, ma Wolfner stesso nei primi studi diciamo così tende a una giustificazione dell'amministrazione giuridica e dice nel 500 all'inizio del 500 la situazione non è peggiore di così. Quando poi analizza a distanza di 20 anni la situazione a Bolzano nella rivoluzione, allora cambia, diciamo così, tesi, e va a una tesi che è più suggestiva per noi, cioè dice che fu l'alleanza dei Pelloite, dei contadini che avevano un semplice sediment, che avevano una casetta e un orto, quindi contro noi diremo dei braccianti, degli obbligati, va bene? Questi sono i più scontenti, come in altre parti quelli che erano soggetti ai Christist, e si alleano con quello che egli non chiama proletariato cittadino, perché il vocabolo è usato dal Maastricht, il quale si fonda appunto poi sulla documentazione del Wolfner in questo caso. Stavo dicendo che lo stesso Wolfner, che è uno dei più competenti, mutò tesi analizzando la situazione nel Bressanonese e poi invece a Bolzano stesso. Sono tutte questioni un po' subiudice e quindi giustificano le perplessità giustissime di alcuni, i quali chiedono massimi dei fonti. c'è una data tendenza o un'altra, e talvolta dobbiamo dire che questa è quella, va bene, eh. Sono d'accordo invece che era un anelito comune, vago, non superficiale, anzi che si ispirava a una tradizione che secondo alcuni risale agli stessi Ussiti, forse risale anche ad eresie di tipo albigese o di tipo valdese, perché sappiamo che dispersi dalla persecuzione molti si rifugiano nelle valli alpine, e quindi può darsi che ci sia stato anche un residuo, se no non si giustificherebbe come l'anabattismo abbia avuto presa specialmente in alcune vallate qui del Trentino, e non in altri luoghi dove le situazioni, diciamo così, socio-economiche erano analoghe. In situazioni socio-economiche analoghe i risultati sono diversi. È questo che ci sfugge. Quindi a un'analisi quantistica, diciamo così, di tipo sociologico, ma nel senso meno scientifico, si può essere condotti a delle valutazioni che contrastano invece con i risultati che riscontriamo a distanza anche di pochi anni. Quasi mi ricollego ad alcune obiezioni fatte ultimamente, non so, da Gaviglia e da altri studiosi francesi, non so, a un Lebras, che vi sei visto. No, dicevo, a che cosa siete giunti con queste analisi di tipo sociologico? A dire per esempio che in base al numero delle comunioni, delle messe di seguito, lì c'era una stata religiosità. Ma quelle stesse zone, a distanza di pochi anni, hanno mutato completamente, quasi che non ci fosse stata una vita religiosa. Ecco perché l'analisi quantistica non è sufficiente e deve essere sempre collegata a un'analisi che noi chiamiamo storica o che fa più affidamento sugli aspetti qualitativi, sui valori, che sfuggono talvolta a una analisi che sia semplicemente di quantità. È già stato accennato al fenomeno degli Amsteger, no? Questi bandati, i quali non sono contro il principe, ma sono contro la nuova situazione che si è creata di un dato, una data località, di una data comunità, quando il cosiddetto signore ha usurpato dei diritti che la comunità considera suoi. Questo è anche il Vaticano. Ecco perché, non so, al limite, uno, non so, anche se stava prendere della storia tedesca, dice che lo stesso Weismayer non fu un ribelle. Beh, diventò in un dato momento un ribelle, ma inizialmente non è un ribelle al principe, anzi ha fiducia nel principe. È soltanto in un secondo momento, va bene, ma quasi sospinto, diciamo così, egli diventa ribelle. Ma in un primo momento può essere detto uno di questi Abstegger. Sì, è uno che va in montagna, diciamo così, che diventa partigiano, ma partigiano che non tende al sovvertimento, diciamo così, dell'ordine costituito, almeno, va bene, vuole tornare ai tempi passati, soltanto che tornando ai tempi passati, ad un dato momento dice, un tempo esisteva non l'odio, possiamo aggiungere l'odio di classe anche se non è del tutto esatto, anzi, va bene, ma esisteva l'amore. L'amore che faceva che una Gemeinde fosse veramente un'anima sola e che fosse una comunità viva. Dobbiamo tornare a quel passato, è un passato che viene visto sempre più lontano, quasi che fosse intervenuta anche una considerazione di tipo platonico, diciamo così, perché c'è molta influenza di Erasmo c'è molta influenza, specialmente poi anche nella Landesordnung, anche se la Landesordnung va bene, puntualizza soltanto aspetti socio-economici, e c'è soltanto quel cappello iniziale sulla lotta agli enti, e gli enti sono molte volte intesi come minter di, come li chiama, di Anten, va bene, cioè, Marc Antoni, noi diciamo così, è in italiano, cioè quelli che si sono arricchiti a spese del popolo. Ecco perché anche nella Landesordnung si dice, non l'avete sottolineato più volte questo aspetto, le compagnie commerciali, finanziarie devono essere private di tutto quello che hanno accumulato qui, perché lo hanno accumulato a spese dei piccoli, dei minimi, in senso evangelico, va bene? È frutto del sangue, di tutta una sofferenza, va bene? E quindi è giusto che quei beni vengano fiscalizzati, perché sono stati conseguiti mediante lo sfruttamento. Il professor Coppola mi ha posto appunto delle questioni che sono senza dubbio di un competente, va bene, rivelano una competenza. Quanto al passaggio dall'economia naturale all'economia monetaria, non fu soltanto una questione di moneta, di passaggio. Mutò in effetti un sistema, da un sistema feudale a un sistema semi-feudale, ma dove? Specialmente qui nel Trentino. Il Trentino è più esposto, diciamo così, alla influenza di tipo italiano. In Italia nel 500, va bene, la Campania è sottoposta alla città, non ha voce. Citavo Santimori, che dice appunto la civiltà, la cultura cittadina italiana è del tutto diversa da quella tedesca, perché quella tedesca mantiene il legame con la campagna, va bene? Invece quella italiana si è evoluta sempre più ed è diventata la sopraffazione quasi della città sulla campagna. Ma la campagna non ha voce, se non qua e là, va bene, non so, nel Friuli con quelle manifestazioni del 1500, la rivolta del 1511, la Pasqua, i fiori di sangue, va bene, o qualche volta, non so, a San Benedetto Po, ma sono sporadiche, la situazione è diversa a Zanimone, come dice tu. Sì, ma è un fatto che qui la cultura è tutta vicina, va bene, alle risente, diciamo così, di questo legame con la campagna, laddove invece nell'ambiente veneto e italiano non c'è questo. Ci saranno eventualmente alcuni come Aurello e altri che si occupano di nuovi metodi, ma sono nuovi metodi di coltivazione, diciamo così, ma non si preoccupano della situazione dei contadini. Forse alcuni umanisti dicono, e giungono a questo, per esempio, che il contadino anche ribelle non deve essere mai perseguitato, perché si ribella per amore, diciamo così, ma la situazione è del tutto diversa. Quanto ai canoni, alcuni sì, da canoni in denaro passano nuovamente a canoni in natura, ma questo non è assolutamente a vantaggio dei contadini. Questo è a vantaggio appunto dei signori, i quali hanno notato che la moneta si è sempre più svalutata e quindi tornano a un sistema, va bene, di canoni in denaro, ma che è tutto a vantaggio per il contadino. Poi, come voi sapete, la situazione di Bolzano è anche un po' tipica. Intanto a Bolzano vengono quelli di Fies, no? Vengono quelli di Fels, quelli della zona, diciamo così, della vicina da Chiusa, su, va bene, a Lago di Caretta, non so, a Livina Longo. E lì c'è un capitano, va bene, c'è anche il signore, Leonard von Fels, che vedete nominato anche negli articoli di Meran, e si dice non vogliamo più uomini, signori come Leonard von Fels. Notate che Geismar è stato di un primo tempo suo scrivano, va bene, all'inizio, suo impiegato nel distretto, diciamo così. Non vogliamo più, perché quelli hanno oppresso. C'è tutta una polemica, viene nominato due volte, va bene, contro questo Leonard von Fels. Laddove i documenti, invece, dei processi, dicono che l'assalto che è stato dato a Castel Trefile, l'assalto che è stato dato anche ai beni di Leonardo von Fels, sono stati fatti perché in fin dei conti, se non l'avesse fatto la gente locale, sarebbero intervenuti quelli di Bressanone, ma tendono a non pagare i 3.000 fiorini che erano stati addossati alla comunità. Anche lì il capitano è il signore ed è uno che opprime. E viene citato espressamente: non vogliamo signori come Leonardo von Fels, che hanno oppresso i contadini. Anche quello è significativo, anche se non è uno dei peggiori, diciamo, di signori, perché intanto era a Innsbruck, non era sotto mano, se no forse la sua fine sarebbe stata diversa. Quindi per mia forza la questione, va bene, sui nobili, c'è l'odio contro i nobili, senza dubbio, perché erano esenti dal canone delle decime, non solo per questo, ma qui dobbiamo distinguere i nobili, diciamo così, di nomina vescovile, specialmente quelli di Bressanone, da quelli di nomina imperiale. I nobili di nomina vescovile di Bressanone sono legatissimi alla curia vescovile e mantengono tutti i sistemi di locazione di tipo semifeudale, quello che non avviene in altri luoghi. Ecco perché anche qui il giudizio non può essere univoco, ma dobbiamo tener conto delle diverse situazioni, va bene, che ci sono in altre parti. Quanto alla propaganda religiosa nel Trentino, sono d'accordo che, almeno da quel che risulta, come ho già detto, non fu così notevole, almeno fino al 1525, come in altri luoghi. Ho già detto che nel Bressanonese era già limitata, qui è ancora più limitata. Forse tra i canopi, c'è poi una diversità. E ci sarebbe come una risorgenza carsica, diciamo così, nel 1562, quando c'è una ribellione che non è stata studiata, e che viene fatta risalire a seguaci del Geismar, va bene, in Val Venosta e anche in Val Giovanni, sicuramente no, la Val Venosta. La Val Venosta poi è tipica, sta anch'essa a sé, perché lì, diciamo, più che la cultura intensiva, c'è quella estensiva, almeno c'era quella estensiva, è l'allevamento, va bene, ed è una situazione del tutto. Poi anche non ci sono le miniere che ci sono invece a Vicipeno, a Valle dell'Isarco, a Vicipeno, specialmente per Schneider, per Monte Neve, dobbiamo tener conto che erano venuti più di 10.000 minatori sassoni, quindi lì si spiega che localmente ci sia stata una propaganda luterana, va bene, ma non è di gente locale, e quindi è un fatto titolare. Poi molto interessanti le considerazioni che ha fatto con le sbaglio spagnoli. Ah no, ci avevo sentito. Ah ecco, sì. Ho capito, no. Ecco, è quello a cui ho accennato precedentemente. Qui c'è il mutamento da canoni in denaro in canoni in materia. E fanno, come ho accennato, a vantaggio dei contadini. Va accennato anche, beh, sarebbe moltissimo da dire, che nella zona di Bolzano e non soltanto lì, i vigneti erano molte volte in mano a canonici o erano dipendenze di ecclesiastici, di enti religiosi, di conventi, di monasteri, d'oltralpe. Non c'è soltanto l'ordine teutonico che ha vasti possedimenti, ma ci sono anche, diciamo, molti vigneti che dipendono direttamente da enti ecclesiastici o da vescovi, appunto, adesso, perché ad esempio si chiede ad un dato momento che il vescovo di Augusta contribuisca alle spese del concilio della città di Bolzano, che tende a far sì che non vi siano più dei cassetti, e si ottiene infatti, va bene, una data somma che deve essere stata piuttosto elevata, perché i singoli mercanti di Bolzano vengono tassati per un minimo di contributo per la rivolta di 100 fiorini, cioè 100 fiorini dovevano essere pagati al consiglio durante, diciamo così, questo tentativo di mantenere la sommossa entro termini, entro, diciamo così, manifestazioni non violente. Mi scuso, va bene, eventualmente dopo nel pomeriggio completo, va bene, perché gli aspetti sono molto e molto complessi. Abbiamo qui vicino in un'osteria, una vera osteria, cioè mi scuso perché...